Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, buon venerdì. Abbiamo Filippa Oreggi oggi in regia alla parte tecnica e Alessandro Marco Tulli in redazione. Siamo pronti per il nostro sommario, andiamo. Pinne e occhiali? No, grazie. Meglio remi e pagaie. Parliamo di canottaggio e canoa. Se chiedi scusa, allunghi la vita. Germogli in tavola. Allora, con una si va avanti mentre con l'altra indietro. Parliamo di canoa e di canottaggio. Oggi una puntata dedicata a tutti gli appassionati di questi sport, ma anche aperta a tutti coloro che con la bella stagione magari decidono di iniziare a remare o a pagaiare. Il nostro numero verde è già a vostra disposizione, 824 0024. I messaggi invece al 349 238 6666. Dottor Confalonieri, bentornato. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Le piace il tema di oggi? Molto, molto, lo caldeggiavo da tempo. Noi abbiamo pensato di parlare di canoe e di canottaggio anche perché si ricorda il nostro amico della poltrona. L'avevamo in qualche modo convinto, anzi l'aveva lei convinto a darsi una mossa. Lui aveva scelto, ci aveva scritto, no? Che aveva scelto la canoa vivendo a Torino, d'altra parte con il fiume Po a disposizione la canoa era anche una scelta. Quindi aveva scelto giusta, bene, certo, certo. Soprattutto comodo. Comodo, uno sport fattibile, piacevole, divertente. Tutto bene e poi? Tutto bene, sembra che dopo 2 anni di attività gratificante adesso si sia fermato per qualche problema. Noi comunichiamo tramite SMS, se oggi, approfittando del tema, vuole richiamarci e dirci quali sono stati i problemi, magari anche con l'aiuto degli altri ospiti lo possiamo aiutare a riprendere. Che cosa può aver sbagliato il nostro Andrea della Poltrona? Può aver sbagliato qualcosa in termini di tecnica, qualcosa in termini di carico, cioè aver esagerato, magari si è fatto prendere dalla passione e quindi ha esagerato, è andato troppo in barca e soprattutto potrebbe non aver fatto quel minimo di ginnastica preventiva e riequilibratrice per cui ha risvegliato il suo corpo, ma non nella totalità, soltanto rispetto ad alcuni gruppi muscolari, ha sollecitato alcune parti del sistema scheletrico e queste a un certo punto gli hanno detto basta e quindi lui è ritornato sulla poltrona. Abbiamo qua accomodato su una poltrona molto comoda Ezio Caldognetto, ciao. Buongiorno a tutti. Diverse volte campione italiano, attuale allenatore dell'Idroscalo Club di Milano, direi una delle grandi fucine dei migliori atleti italiani degli ultimi anni. Allora Ezio, oggi tu sarai il nostro testimonial della canoa kayak. Con molto piacere. Però noi parliamo di canottaggio e lo facciamo con un campione olimpico. Saluto Rossano Galtarossa. Ciao, che onore! Ciao, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora, dottor Confalonieri, due sport dove abilità, potenza e resistenza coesistono. Esatto, questo è un aspetto molto interessante di questi sport che possiamo definire completi e affascinanti dal punto di vista tecnico e fisiologico, proprio perché sono sport che richiedono da un lato una notevole abilità dal punto di vista proprio tecnico, gestuale. Non è facile portare la barca, soprattutto non è facile portarla velocemente in modo pensavo efficace. Che lei mi dicesse in spalla. No perché ha fatto vero? Ha fatto proprio un gesto. Sì. Ho detto, ma... Inoltre sono sport di forza, classicamente l'immagine che noi abbiamo del canottiere o del canoista è proprio di una persona molto strutturata, con delle spalle larghe, molto direi muscolato, un quindi fisico forte, scolpito, quasi dei bronzi di Riace, quindi sport dove la forza è sicuramente importante, però sono anche sport che prevedono gare di una durata relativamente elevata e quindi sport di resistenza. Soprattutto diventano sport di resistenza, quindi efficacissimi per il sistema cardiovascolare, quando li facciamo in modo turistico, cioè utilizziamo la barca per passeggiate sulle nostre acque. Allora, quindi sport estremamente completi. Estremamente completi, più maschili che femminili, ma cercheremo di capire perché nel corso della trasmissione, quindi invito le mie ascoltatrici da casa a chiamarci e 824 0024. Ezio e Rossano, dateci 3 buoni motivi per iniziare a fare canoa kayak. Inizi tu e poi andiamo da Rossano, che è testimonial del canottaggio e quindi avrà sicuramente 3 buone indicazioni per aiutare i nostri ascoltatori ad avvicinarsi a questo sport. Ezio. Ma il primo motivo credo che sia quello turistico ambientale, nel senso che sarebbe un modo, soprattutto per noi in Italia, che siamo circondati dalle acque, il mare, i fiumi, i laghi, per poter conoscere meglio il nostro territorio. Questo potrebbe essere il primo motivo per tutti. Il secondo motivo certamente è quello di vedere gli stessi posti da una prospettiva diversa, perché andare per Venezia attraverso le calle in canoa è una prospettiva che nessuno può aver mai visto. E terzo, perché il nostro sport è altamente completo, come ha già specificato il dottore precedentemente, per l'armonia del corpo. Rossano, no, si può andare fare canottaggio a Venezia? Ma più difficile. Molte società a Venezia che però combattono un po' col moto ondoso, perché le nostre imbarcazioni sono concepite per navigare e regattare sull'acqua piatta. Sì. E ci sono alcune manifestazioni che vengono fatte, ma sì, la città è molto bella, ma forse poco si presta per questo tipo di attrezzature. Sì, però ci sono molti altri luoghi. Beh, per esempio all'Idroscalo abbiamo disputato noi, anche oltre a vari campioni italiani, Coppa del Mondo, Mondiali nel 2003. E quindi l'ideale è avere uno spazio d'acqua in cui non ci sia poca corrente, non ci sia un moto ondoso impegnativo, e anche perché noi andando all'indietro abbiamo bisogno anche di punti di riferimento. E devo ripetermi per quanto riguarda un po' le caratteristiche del suo sport, perché mi fa piacere quando si parla di una disciplina completa. Effettivamente richiede un impegno muscolare completo. Mi fa piacere che venga fatta la distinzione tra agonistico e turistico, perché a volte si pensa che discipline come le nostre siano per forza faticose, invece nel momento in cui si diventa autonomi con l'attrezzatura, poi si può far scivolare una barca con estrema facilità, perché pesano veramente poco e scivolano sull'acqua con molta facilità. È diverso se uno invece vuole fare le gare, che ha il confronto con il cronometro, certo, e con gli avversari. Il canottaggio è uno sport che ha delle prerogative di uno sport individuale e le prerogative di uno sport di squadra, quindi anche questo ricopre questi aspetti in maniera, diciamo, piuttosto completa. E a me piace ricordare che su uno sport dove certo è richiesto un impegno fisico importante, nel caso dell'agonismo, ma la differenza la fa chi riesce a sviluppare la sensibilità, quindi è molto importante la parte, l'aspetto tecnico e la capacità di mantenere la sensibilità e quindi la lucidità anche nelle fasi più concitate della gara. Quindi questo sviluppa anche l'aspetto mentale in maniera molto importante negli atleti. Certo, è un quindi aspetto molto, molto bello, perché altrimenti vincerebbe l'uomo più forte del mondo. E certo, ci vuole testa. Come i nostri, ti riesce a essere sensibile e riesce a fare la differenza. Dottor Confalonieri, è arrivato il tempo delle nostre domande, delle sue domande ai nostri ascoltatori, che invitiamo a chiamarci per... Ma oggi pongo una domanda che mi sono posto spesso anch'io. La canoa e il canottaggio sono due sport che avrebbero tutte le caratteristiche nel nostro paese per essere diffusissimi. E abbiamo avuto grandi campioni, si pensi a Rossi, alla Ide, Magalta Rossa e a tutti i grandi protagonisti del canottaggio. Sono sport completi, quindi ottimi dal punto di vista della salute. Sono sport ecologici, adesso è di gran moda lo sport ecologico, lo sport a contatto con la natura. Sono sport tutto sommato facilmente praticabili in moltissime realtà italiane, perché l'acqua in Italia non manca. Come mai così pochi ragazzi e così pochi adulti fanno canoa e canottaggio? Poi basta spostarsi molto vicino, penso alla Francia, penso alla Slovenia, penso alla Croazia, e abbiamo tantissima gente in barca. Perché gli italiani non amano le barche? Provate a spiegarci. 800 24 0024, Diego, avevamo promesso, si ricorda, di trattare questo tema, e scrive: grande Nicoletta, l'ha fatta davvero la puntata per Andrea. Speriamo si faccia vivo. Ascolto con attenzione, anch'io sto iniziando con il kayak. 349 238 6666, se preferite, come Diego, Marco, Alessandro, Andrea, Pietro e Giovanni, forse, mandarci un messaggio tra poco. Una mela al giorno. Chiedere scusa è tanto difficile quanto necessario, e una ricerca dimostra che in alcuni casi, per alcune persone in particolare, è addirittura terapeutico. Ne parliamo con il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico della Casa di Cura Villa San Benedetto. Buongiorno. Ciao Nicoletta. Come sta? Bene, bene, non mi lamento. Tutto bene? Lei riesce a chiedere scusa? Ho imparato a farlo, non mi è spontaneo, d'altronde il prototipo mi viene in mente di maschio che non chiede scusa era Fonzi, ricordate che faceva proprio fatica, non so se ti certo. Ricordi quelle sketch in cui lui proprio scusa non riusciva a dirlo, è un po' un segnale di come è fatto l'uomo. Professore, io partirei da una ricerca americana che sembra un po' bizzarra, ma ci dà lo spunto per fare una riflessione a voce alta, la raccontiamo in breve, professore? Sì, è uno studio molto interessante perché fa vedere una differenza fra i sessi, cioè tra maschi e femmine, nell'importanza delle scuse. Cioè, mentre l'uomo, quando gli facciamo un torto e gli chiediamo scusa, tutto sommato la scusa vale poco o niente, cioè rimane attivato, arrabbiato, rimane quindi dal punto di vista del sistema nervoso negativamente colpito dall'evento negativo. La donna cambia, cioè se alla donna chiediamo scusa, improvvisamente il corpo si rimette a funzionare in maniera ottimale e anche la mente. Quindi purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, per la donna è un elemento essenziale quello di avere una comprensione umana. Perché questo è molto importante, Nicoletta? Perché si dice ancora una volta che le relazioni, i rapporti con gli altri, quindi la comunicazione interpersonale, sono fondamentali per la donna, mentre per l'uomo hanno un peso molto minore. Noi ci limitiamo a aggiustare lampadine, scherzosamente dicendo. In realtà le donne hanno bisogno di un accudimento, di un'attenzione molto particolare che noi uomini spesso non diamo. E purtroppo questo influenza poi la salute, questa è la cosa peggiore. Professor Perna, allora vogliamo andare alle istruzioni per l'uso delle scuse? Bisogna trovare anche il tempo oltre che al modo, Ci sono tanti siti su internet che suggeriscono le frasi per chiedere scusa. Ce ne sono tantissimi, se andate a fare un giretto, segno che forse cercano di colmare un vuoto. Uno non trova le parole per chiedere scusa, ma bisogna trovare anche il momento. Allora, professor Perna, un consiglio per gli uomini e un consiglio per le donne. Ma per gli uomini credo che la cosa più bella e più apprezzata sia una lettera di scuse. Quindi che l'uomo si metta lì con la sua biro e riesca a esprimere, non in una riga, ma in qualche riga in più, quello che è la scusa con l'affetto, perché il concetto non è chiedere scusa, ma certo. Scusa diventa un modo per riproporre il proprio affetto, il proprio legame. Sì. E quindi è fondamentale che l'uomo faccia questo passaggio, si costringa a scrivere due righe in più. La donna viceversa, se è vero che dire scusa all'uomo, non dirlo, conta poco, come dice questo studio, a quel punto lì non è che influenza la salute, la donna deve essere molto essenziale, perché nel momento in cui per chiedere scusa inizia a usare troppe parole, sappiamo che noi uomini siamo un po' troppo essenziali spesso, quindi veramente talvolta basta lo scusa semplice da parte della donna che l'uomo apprezza questa cosa qui, quindi poche parole essenziali tra l'uomo e la donna, mentre tra la donna e l'uomo, mentre tra la donna tra l'uomo verso la donna, molta attenzione. Allora, per chi non sapesse proprio da che parte cominciare, c'è anche un manuale, Chiedere perdono senza umiliarsi, proprio una guida pratica, Paoline Editoriale e Libri. Professor Perna, buongiorno e grazie. Grazie a voi tutti e buona giornata. Pronto soccorso. Pagaiando o remando, oggi parliamo di canoa e canottaggio. Il dottor Franco Confalonieri ormai lo vede? Sono un po' turbato perché devo essere un po' femminile. A me quando chiedono scusa fanno stare molto bene. E questa cosa mi ha un po' messo in crisi. Adesso spero di riprendere. Allora, il dottor Confalonieri ci chiedeva come mai con tutta questa bella acqua a disposizione, quindi queste occasioni per stare proprio a contatto con la natura, canoa e canottaggio fanno un po', lei non ha detto Cenerentole, ma sono meno diffusi di quanto in realtà potrebbero esserle. E secondo te perché? Ma molte volte si parte con una preclusione verso l'acqua, la prima cosa che ci si avvicina da bambini è fare il corso di nuoto per la paura dell'acqua e poi forse non si incentiva questo collegamento, cioè l'uomo nasce dall'acqua, percentualmente l'uomo è composto da acqua, ma si fa fatica a creare questa relazione uomo-acqua. Rossano, secondo te, se volessi dare una risposta alla domanda del dottor Confalonieri, che cosa allontana gli italiani, in genere gli sportivi, dal canottaggio? Quello che dice Ezio è effettivamente vero, nel senso che a volte i genitori sono intimoriti per primi dalla presenza dell'acqua come elemento essenziale per fare le nostre discipline. Poi a volte vedendo in questi anni che mi hanno portato gareggiando a girare un po' per il mondo, Ora effettivamente in Italia c'è una cultura sportiva un po' troppo indirizzata verso un altro sport, sì. Quindi già questo di rotta gran parte. Rema contro, verrebbe da dire proprio. Gilberto da Terni, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Con me, se si apre internet, mi si trova sulla canoa già partendo da 35 anni fa. Caspita. Perché l'ho iniziata troppo presto, prendendomi sul serio, sono policlotta e vedendo all'estero come vanno le cose, sì, sono tornato in Italia con tanti filmati e secondo me, rispondendo al dottor Confalonieri, al professore, sì, oggi diceva, l'abbiamo fatto diventare professore, in realtà lui vuole essere solo dottore perché è medico, per fortuna. D'accordo, ecco. Io la guardo da un punto di vista, no, di crescita, e sì, questa crescita poteva esserci se si andava, o se si va ancora tutt'oggi, nelle scuole. Qui dove sono io a Termino c'è un lago, un bacino lacustre, acqua tantissima, con tante centrali elettriche. Sì. Quindi mettendo insieme le centrali elettriche, a Piedilugo nasceva quel centro remiero, e per la canoa non è che ci vuole da spendere troppi soldi, almeno una volta era così. E ho fatto corsi di canoa eccetera, poi le cose non sono andate avanti perché, come dico, non si è partiti per andare nelle scuole. Certo, quindi bisognerebbe coltivare questa passione fin dalle scuole. Tante volte abbiamo sottolineato questo aspetto, che aiutiamo poco i nostri ragazzi ad amare lo sport. Possiamo andare da Rita, da Ferrara, o dottor Confalonieri voleva... No, volevo solo aggiungere che in questo caso si unisce proprio l'aspetto legato al benessere indotto dall'esercizio fisico all'aspetto culturale, perché si fa della prevenzione rispetto a tutti quelli che possono essere gli incidenti in acqua, portando le barche nelle scuole. Andiamo da Rita. Rita, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ci racconti? Sì, io volevo dire che ho un nipote che aveva cominciato con tanta passione, però ha dovuto smettere perché sono molto esigenti come club, che tutti i giorni allenamento più la domenica le gare. Cosa faceva Rita? Scusi, non ho capito. Canottaggio. Sì, no, perché dato che parliamo di tutte e due, io non avevo colto il canottaggio. Quindi troppo esigenti, e suo nipote ha dovuto mollare perché non riusciva a stare nei tempi della scuola e dell'allenamento? Certo, non riusciva, perché poi la domenica le gare, e insomma, addirittura avevano chiesto alla mattina prima della scuola. Sì. Non è possibile che... Allora, Rossano, è così? È una vita così dura per i ragazzi prima di andare ai mercati? Il dottor Confalonieri mi fa un cenno, come per dire, beh, è logico. È così? Mi strappa un sorriso, perché effettivamente anche il canottaggio è uno sport che, se interpretato nell'ambito agonistico, richiede una preparazione molto, molto intensa, e quindi effettivamente gli atleti che si dedicano alle competizioni si allenano tutti i giorni o anche più volte al giorno. Io stesso sono andato a fare 13 allenamenti alla settimana. Sì, vabbè, però me è capitato di fare la prima Olimpiade l'anno in cui ho dovuto dare l'esame di maturità, quindi diventa una scuola anche quella, perché se ti piace fai delle scelte. Io non parlo di sacrifici, parlo di scelte, e ovviamente devi a un certo punto decidere quali sono le priorità. Però per esempio anche noi a Padova, verso il mio circolo, la Canottier Padova, abbiamo capito che non tutti sono intenzionati a fare l'agonismo, e quindi diamo spazio anche a chi vuole solo imparare a diventare autonomo con una barca da canottaggio, e gli diamo la possibilità di venire un paio di volte alla settimana come qualsiasi altra disciplina. È un po' un discorso di mentalità, credo, anche dei tecnici, cioè sicuramente allenare gli atleti che sono appassionati e vogliono competere, però strutturarsi all'interno dei circoli per dar spazio anche a chi vuole solo fare un po' di attività fisica bella, completa, all'aperto. E riprendiamo a remare, a pagaiare. Spesso vediamo questi sport praticati quando, proprio come faceva Andrea, no? Seduto sulla poltrona, e pensiamo che siano lontani, qualche cosa destinato solamente alle persone che fanno sul serio, che diventano proprio agonisti, campioni. In realtà sarebbero sport da praticare anche nel quotidiano, senza farsi prendere la fregola di improvvisarsi, Ezio. Questo dobbiamo dirlo e sottolinearlo. Però alla portata di tutti, sbaglio? Sì, no, sicuramente diciamo la cultura sportiva che piano piano sta cercando di decollare nel nostro paese porta anche delle società, le società, i club, strutturati o meno, a offrire prodotti adeguati alla richiesta, fra virgolette, del cliente. Quindi se una volta i circoli sportivi avevano solo un indirizzo agonistico, adesso i circoli sportivi cercano di venire incontro alle esigenze. Quindi, come ha detto la signora prima in trasmissione, che il nipote era troppo stressato dalla richiesta della sua società, del suo club di appartenenza, adesso in verità, come in una qualsiasi piscina viene offerta la scuola di nuoto, nei circoli di canoa e canottaggio viene offerta la scuola di canoa e di canottaggio. E tutti possono iniziare a fare canoa o canottaggio, Rossano? Sicuramente c'è magari un limite di età di inizio, perché comunque le attrezzature, anche quelle per i più giovani, hanno delle misure, ma di solito dai 9 anni in poi si può iniziare. Per quanto riguarda il canottaggio, magari Ezio può dire se per la canoa si può fare un pochino. Sì, effettivamente dipende molto dalla struttura del bambino, perché magari anche a 7 anni vediamo bambini già strutturati, in grado di gestire le leve della pagaia, le misure delle barche. È molto individuale. Dottor Confalonieri, allora proviamo a stuzzicare la curiosità dei nostri amici da casa e invogliarli quindi ad affidarsi a persone esperte, quindi istruttori, per fare un corso che abbiamo visto anche per amatoriali, per poter magari uscire, no? Anche solamente per muoversi un po' sull'acqua, per vedere il panorama da un'altra prospettiva e prendersi anche un po' di sole. La primavera arriverà ben, no? Dottor Confalonieri, vantaggi? Vantaggi a tre livelli. La pancia? A tre livelli. Vantaggio classico, sono comunque sport, soprattutto se praticati in modo turistico in senso generale, che sviluppano la resistenza e quindi comportano miglioramento dell'efficienza cardiovascolare e consumo calorico anche significativo, e quindi potenzialmente sono ottimi come coadiuvanti in un programma di dimagramento. Sono sport di forza. Il canottaggio, con un impegno globale della muscolatura, gambe e parte superiore, e quindi sono sport che aiutano a mantenere un tono muscolare adeguato o a rafforzarsi dal punto di vista del tono muscolare, quindi da questo punto di vista sicuramente utile. Terzo, sono sport che richiedono un'elevata abilità, quindi estremamente efficaci nel migliorare le nostre capacità motorie, e anche molto efficaci nel migliorare le nostre capacità di equilibrio e di gestione del corpo, che è forse la capacità o l'abilità coordinativa e motoria più importante di tutte. Quindi da questo punto di vista, facendo canoa canottaggio, noi abbiamo la possibilità di diventare più intelligenti nell'utilizzo anche quotidiano del nostro corpo. Però Mattia, da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io ho 30 anni e qua a Pavia abbiamo il fiume Ticino, che sì, è un fiume che rispetto molto, perché sa essere molto affascinante ma anche molto pericoloso. Quindi lo sport di canottaggio e canoa che ho praticato, e ho anche le mie canoe private, diciamo, mi ha preso un po' con le pinze, nel senso che a livello amatoriale è un pochino difficile per tutte le persone diciamo poterlo praticare, nel senso che ci vuole una buona base di coraggio e di conoscenza dell'acqua. Sì. Intendo proprio saper nuotare, saper stare sotto con la testa, perché ricordo anche che andare in canoa significa anche a volte, per i più esperti, magari rovesciarsi. Sì. E essere sotto con la testa. C'è una preparazione a priori che va fatta, vanno fatti dei corsi, e la prima volta bisogna andare sicuramente con un istruttore. Ecco, io la ringrazio Mattia, perché Mattia ha sottolineato quello che dicevamo proprio pochi minuti fa, cioè non affidarsi, non lasciarsi trasportare dall'entusiasmo e dire bene, ok, domani c'è il sole, quasi quasi prendo un kayak, un canoa kayak e me ne vado. Bisogna affidarsi, come dicevamo con i nostri esperti, a dei professionisti, perché c'è un ABC e ci sono sicuramente delle regole. Ezio, sei d'accordo con Mattia? Sì, sì, sicuramente l'approccio a questi sport d'acqua devono avvenire attraverso delle scuole appropriate, che sia di canoa che sia di canottaggio, perché quando si pratica uno sport a contatto con la natura, cioè, l'elemento sicurezza diventa dominante. Andare da solo in un grande magazzino a prendersi una canoa o una qualsiasi barca e buttarsi nell'acqua è estremamente pericoloso. Invece, affidandosi a delle scuole dove generalmente la prima lezione è proprio quella degli elementi di sicurezza. Mariangela, dalla provincia di Varese, buongiorno. No, io mi emoziono, per cui dai, che allora ci emozioniamo tutti, ecco, così facciamo una squadra. Mio figlio ha fatto 9 anni canottaggio. Sì. La cosa che secondo me ha ottenuto, cioè il risultato migliore che ha avuto, è stato il suo carattere. Praticamente, secondo me, ha imparato a saper perdere, perché è arrivato tantissimi anni quarto. Sì. Poi, e quindi non è bello arrivare insomma, non prendevi le medaglie né niente. Sì. Poi negli ultimi anni vinceva anche, sono arrivati per società, hanno vinto campionato italiano per società nell'otto peso leggeri. Questa è una società piccolissima, la Canottieri Monate. Sì. E quindi canottaggio per il carattere e anche immagino per il fisico, perché lo modella. Dottor Confalonieri, io volevo dare la parola a Rossano per, sì. Però volevo aggiungere una cosa che spesso si trascura del canottaggio. Si parla tanto adesso dello sport come esercizio di vita, lo sport per il team building, lo sport per costruire il gruppo. Ecco, credo che da questo punto di vista, per tutti gli sport che ho conosciuto io, il canottaggio è lo sport migliore, perché è uno sport dove tutti sono impegnati e tu non puoi barare. Il momento che il tuo impegno diventa del 90% invece del 100%, non danneggi te stesso, ma danneggi la squadra che in quel momento sta remando con te. Questo è un valore educativo del canottaggio, secondo me, straordinario. Rossano, confermi? Assolutamente. Beh, intanto devo fare i complimenti al dottor Confalonieri, perché sta facendo delle puntualizzazioni che mi fanno molto piacere, perché mi occupo anche di team building, di formazione, quindi trovo la possibilità di fare dei parallelismi molto interessanti tra il canottaggio e il mondo dell'azienda. È uno sport dove, se hai talento, sicuramente all'inizio riesci ad apprendere, a imparare un po' prima degli altri a far muovere la barca, però effettivamente senza una buona dedizione ti inventi ben poco, e questo ti insegna che i risultati derivano da una concentrazione, da un buon lavoro, da una programmazione, e a volte può succedere che malgrado tu faccia tutto del tuo meglio, qualcuno arriva prima di te al traguardo. E l'insegnamento che ne deriva è quello di sapere apprezzare le proprie possibilità, senza però accontentarsi di essere inferiore agli altri, ma cercare di poter migliorare di giorno in giorno. E da questo punto di vista, quindi, l'aspetto caratteriale, sono d'accordo che è una scuola di vita veramente importante. Dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, se ci si muovesse più magari in canoa. Ezio, anche la canoa ha un riflesso, una ripercussione sul carattere? Sì, principalmente se il canottaggio, come abbiamo detto, è più da team, da squadra, la canoa è forse più dall'individuo, dal carattere forte del singolo, e più singoli che vengono messi assieme. 824 0024, quindi stiamo parlando di uno sport, e come sempre non ci limitiamo a sottolinearne i benefici dal punto di vista fisico e della salute, ma si rifinisce sempre a parlare, questo è magnifico ed è quello che ci piace, del carattere, della personalità, di come impegnandosi in un'attività sportiva ci si ritrovi sempre un po' diversi, migliori nella maggior parte dei casi. E neanche questa volta Andrea ci ha chiamato. Dottor Confalonieri, ci speravo. Allora, però non è ancora detta, no? Magari ci scrive. Paolo ci chiama da Vicenza. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. In realtà sono per strada, sto proprio chiamando da Padova. Ho 57, saluto Caltarossa, ho 57 anni. Sì. Ho fatto parecchi sport in vita mia. Poi per un bel periodo mi sono seduto. E ho preso una trentina di chili che sono riuscito a tirar via ultimamente. La mia domanda è: ho sempre avuto l'idea, io sono un camperista, allora, vedendo vari posti di mare, sia di mare che di fiume, mi sono venute tante volte idee tipo: metto una canoa sopra il camper e così vado. Dopo certe calette, certi posti eccetera, ci vado in giro meglio che a piedi o con la macchina. Sì. La domanda è, fatemi venire voglia di fare questo, cosa devo fare? Allora, Ezio. No, l'immagine sua è anche la mia, anch'io ho il camper, anch'io vado con la canoa per mare, e l'idea innanzitutto è quella semplicemente di prendere contatto con una scuola per avere i fondamentali di sicurezza, di tecnica, di postura, quant'altro, questo per evitare di crearsi infiammazioni o infortuni vari. Dopodiché è verissimo, parcheggiando il camper in qualsiasi angolo della strada puoi andare a vedere e ammirare panorami unici. Senti Ezio, intanto quanto costa una canoa kayak? Ma appoggiandosi alle scuole di canoa, di fatto il costo è solo l'iscrizione ai circoli sportivi, perché dotarsi privatamente del materiale può anche essere non troppo pratico. Per ricoverare una canoa nel proprio box non è mai una situazione facile. Io dico questo, per questioni ambientali, di comodità e quant'altro, appoggiandosi ai circoli diventa una cosa molto più semplice e comunque non sarà mai una spesa oltre i 500 euro dotarsi di un materiale, di una canoa gonfiabile o in polietilene o qualche materiale sintetico vario. Però prima si impara, prima di andare in camper con la canoa, prima si impara, certo, bene, certo. Tutte le regole tecniche, soprattutto la sicurezza. Certo, certo. Questo vale anche per il canottaggio, però, Rossano, assolutamente affidarsi ad una scuola, sì, non improvvisarci. L'improvvisazione di solito non è la cosa, la soluzione migliore. Affidarsi a delle società sportive che abbiano dei corsi sicuramente dà l'impostazione di base, prima per quanto riguarda la sicurezza che è fondamentale, ma poi anche per sfruttare al meglio il gesto tecnico, quindi fare meno fatica e a volte anche evitare di procurarsi delle infiammazioni o dei fastidi muscolari da atteggiamenti posturali o movimenti non corretti. Allora, io volevo un aiuto per un'ascoltatrice che ci scrive. Volevo iscrivere mio figlio, ma avete sollecitato me. Sto già cercando circoli a Bari per donne mature. Avete indirizzi da segnalare? Ma allora, per una donna matura, meglio canoa kayak o canottaggio? Ma io direi tutte e due, nel senso, a Bari può andare tranquillamente in due circoli molto famosi che sono lì, che sia il Cus Bari o la Canotteria Barion, che ti offrono sia il servizio di canoa e canottaggio. Questo garantirebbe la scelta più opportuna. Si può fare l'uno e l'altro. Flavia da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie. Intanto sono perfettamente d'accordo su quanto avete detto. Sottolineo soprattutto l'aspetto educativo di questo tipo di sport. Sì. Assolutamente. L'importanza andrebbe incoraggiato in tutti i modi. Invece mi sembra che succeda il contrario. Ma speriamo che dopo questa trasmissione qualcosa si muova, a pelo dell'acqua. Flavia, se vuole fare una domanda o chiudere la sua intervento. Questo. Mi scusi, volevo dire... Quando un ragazzo ha imparato, si è responsabilizzato, è in grado di muoversi da solo perché ha frequentato scuole eccetera, gli piacerebbe prendersi la sua canoa, mettersela sul bagagliaio, sul tetto della macchina e andare. Sì. Il problema è, sul lago di Garda, io parlo del basso lago, sì, non è così semplice, o sei iscritto a un club, oppure perché quando si porta una barca o una canoa o anche una piccola vela eccetera, bisogna avere un posto dove mettere la macchina vicino, perché se no diventa difficile. Quindi insomma c'è poi qualcosa a livello pratico, logistico, che rema contro, Ezio, è così? Ma questo può essere più per il canottaggio, perché tra remi e scami occupa parecchio spazio, ma la canoa, ho frequentato io il Basso Garda, parliamo di Salò, parliamo di Gardone Riviera, parliamo di quella zona lì, è un attimo mettere la canoa nel porticciolo in acqua e pagaiare, bellissimo. Allora, dottor Confalonieri, prima di andare al nostro consiglio di chiusura, abbiamo proprio un minuto per tirare le fila del discorso, tre consigli, tre spunti a chiusura della nostra trasmissione. Ma direi che il fatto che ci siano state così tante telefonate, così tanti messaggi, sottolinea che la canoa, il canottaggio, la barca potrebbero essere davvero una strada alternativa per portare avanti quello che noi stiamo cercando di fare da tempo, cioè questa cultura dell'esercizio fisico anche attraverso strade diverse. E qui, ripeto, questo tipo di sport unisce tre aspetti fondamentali: la completezza, il rapporto con l'ambiente e quindi l'ecologia ed il divertimento. Quindi tre delle chiavi che ci consentono di fare sport e di continuare a farlo anche dopo aver cominciato. Allora, ringrazio Rossano Galtarossa che ci ha dedicato il suo tempo. Grazie Rossano, sei stato davvero gentile. Piacere. Un saluto e un ringraziamento particolare a Ezio Caldognetto, grazie per essere proprio venuto qua in studio, il dottor Franco Confalonieri, sempre un grazie a proposito di grazie di cui abbiamo parlato oggi e un arrivederci al prossimo venerdì. E adesso è tempo del nostro consiglio del giorno. Oggi l'idea che vi suggerisco è di assaggiare i germogli, che diciamo sono un po' il simbolo della primavera. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Marco Bianchi, autore di un libro che a me è piaciuto molto e continuo a consultarlo. Si intitola I Magnifici Venti, Ponte alle Grazie Editore. E il dottor Bianchi è ricercatore presso l'Istituto Firche, che è la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Dottor Bianchi, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dottor Bianchi, parliamo dei germogli. A vederli sono così piccoli, così sottili, eppure veramente sono tosti, sono un vero concentrato di energia, gusto. Confermo, concentrato di vitamine anche soprattutto, perché così piccoli ma sono veramente eccezionali dal punto di vista nutritivo. Pensate che raddoppiano circa del 100% la loro quantità di vitamine è presente rispetto alla pianticella, insomma, cresciuta, adulta, ecco. Esistono differenti germogli sul mercato, sia per natura, insomma, di organolettica differente, e sia anche per colori. Infatti sono fantastici anche proprio da vedere nel piatto. Abbiamo germogli di girasole, sono ricchi di vitamina C, vitamina E, fosforo, calcio, fitosteroli, così importanti per il nostro colesterolo. I germogli di coriandolo sono squisiti, se leggermente aromatizzati al limone anche. E poi ancora germogli di finocchio, che ricordano un pochino il gusto dell'anice, germogli di grano ricchi di vitamina E e sono anche ideali a colazione nello yogurt o tuffati nel miele, insomma. Germogli di lenticchia ricchi di B1, B2 e vitamina C, oltre che ovviamente di ferro come la gran parte dei legumi. Dottor Bianchi, noi siamo abituati a vedere nei supermercati germogli di soia. In realtà lei ci sta dicendo che oltre a quelli ce ne sono diversi tipi e che si possono anche coltivare in casa, è vero? Assolutamente, si possono coltivare anche in casa abbastanza facilmente, infatti ciò che è necessario è solamente un po' di sole e acqua e ovviamente i semi degli stessi germogli, appunto, e in qualche giorno abbiamo a casa la nostra produzione di germogli in maniera molto, molto facile e fresca soprattutto. Dove li mettiamo? Li mettiamo in una piccola bacinella? Li mettiamo in una piccola bacinella su un colino, sì. Che continuiamo a bagnare un paio di volte al giorno e diamo tempo al seme di germogliare. Nel momento in cui germoglia sappiamo che la sua vitalità, insomma, in termini di vitamine a livello nutrizionale, raddoppia appunto nell'arco delle 72 ore e si mantiene tale per 7 giorni circa. Meglio naturalmente quindi consumarli crudi con una ricettina, dottor Bianchi, che peschiamo dal suo libro. Allora, ciò che si può consigliare oggi è un bel carpaccio di finocchi con tonno e germogli di rucola. E semplicemente dobbiamo affettare il finocchio in maniera molto sottile. Molto sottile, certo. E poi appunto appoggiamo, distribuiamo i germogli di rucola sul nostro piatto e con del tonno sgocciolato. In alternativa io direi anche di colorare il nostro piatto aggiungendo anche dei fantastici germogli di broccolo e di girasole. Magnifico, e hanno un colorino diverso rispetto agli altri? Assolutamente, sì sì, ognuno ha la sua varietà, insomma. Quindi un piatto colorato oltre che nutriente e buono. Dottor Bianchi, noi ci sentiamo, torna a trovarci magari la prossima settimana? Molto volentieri, certo. Grazie dottor Bianchi, le faremo sapere. E per questa puntata è tutto, vi ringrazio per essere stato con noi. Appuntamento a domani per Questa Casa Non È Un Albergo e lunedì sempre con la salute dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.